Eccolo qua, questo è il 26 maggio, prima parte. Allora, facciamo il riassunto dell'altra volta? Facciamo il riassunto dell'altra volta, così faccio prima. Siamo alla posizione di una lavagna. Allora, prima fase degli studi, diciamo, la nascita e il primo sviluppo della cibernetica. Il concetto centrale è quello di omeostasi. Questa è la tabella che ha fatto l'altra volta. Chi c'era l'altra volta può evitare di... Lo scrivo solo per chi non c'era l'altra volta o per chi... Allora, teoria dell'informazione, l'abbiamo più o meno spiegata l'altra volta, è Shannon Weaver. Il modello del neurone. McCulloch. Come fa la rana a non farsi ingannare dalle robe nere che volano, che non sono mosche? Il computer digitale. Von Neumann. Ovviamente dietro c'è Turing. Ma Turing sta per i cazzi suoi, aveva dei cazzi ben più grossi in quel periodo per non andare in America a partecipare alla Golden Winner, perché lo stavano processando per omosessualità, come forse sapete, gli stavano facendo delle robe bruttissime, terribili, tra cui quelle che la Lega vorrebbe fare a una specie di castrazione chimica, infatti morì suicida per questa roba qua, in Inghilterra. E la visione complessiva, l'uomo che mette insieme tutta questa roba qua, che è Wiener. Ho chiesto un'aula con la lavagna perché bene, il concetto è chiaro? Sì. Questo è il feedback. L'omeostasi si realizza attraverso dispositivi che sono in grado di tenere conto di quello che è successo in uscita per modificare l'entrata. Adesso, col senno di poi, con quello che sappiamo, possiamo dire che è un tipo di modello molto rozzo, non è molto sofisticato. L'ipotesi fondamentale è non solo di non sapere, ma di non interessarsi neanche della struttura interna, del dispositivo che opera tutte queste cose, che sia un corpo, una cellula, la mente, quello che volete, no? Il discorso del feedback è un discorso che tiene conto soltanto di ciò che si vede, di quello che entra e di quello che esce. Il discorso del feedback ha la presunzione di poter stabilire, di poter dare una descrizione sufficientemente accurata del sistema senza tenere conto di quello che gli succede dentro, tenendo conto soltanto di quello che si vede in ingresso e in uscita. Capite, diciamo, i limiti di questo discorso, no? Anche il modello della macchina di Turing, fatto quasi 20 anni prima, più o meno, 15 anni prima, era più delicato di questo, era più sofisticato. La macchina di Turing è descritta così. C'è un nastro suddiviso in caselle, infinito, nel senso che infinito vuol dire che non posso mai sapere quando è, non posso sapere quando è cominciato, non posso sapere quando finisce, nel senso che suppongo sempre di avere una casella in più di quelle che ho usato fino a quel momento, ma questo vuol dire infinito. Poi c'è una testina di lettere, allora, poi c'è un alfabeto di simboli, di segni, qualsiasi. Ognuna di queste caselline del nastro ha un simbolo segnato sopra. Può anche non averne nessuno, ma è come se ce ne avesse uno, perché basta. Basta introdurre un simbolo per vuoto ed è come se ci fosse il simbolo di vuoto. Poi c'è una testina di lettura. Fin qua siamo più o meno nel modello, in un modello simile a quello del feedback. Beh, però c'è una cosa in più. La testina di lettura, dunque, il nastro si sposta, diciamo, in una direzione prefissata, sempre quella, diciamo verso destra, per me, anche per voi, verso la nostra destra, e c'è un dispositivo chiamato testina di lettura che legge una casella per volta. Ogni volta che la testina di lettura legge fa una certa azione sulla casella che ha appena letto. Attenzione, questa azione però, è qui che entra in ballo un'ipotesi un po' più raffinata, questa azione consiste non solo nel poter cambiare o anche lasciare inalterato il segno, il simbolo che c'è sulla casella del nastro, ma anche nel cambiare una qualche cosa chiamata stato interno della macchina. Quindi, l'idea di Turing è di avere un nastro di avere un alfabeto di simboli, chiamiamoli X1, X2, XN, e poi però di avere qualche cosa di misterioso chiamato stato interno della macchinetta che legge, e anche questo stato fa parte di una lista finita di stati. S1, S2, diciamo SM, perché non è detto che siano gli stessi, sia lo stesso numero degli stati. Ogni volta, qui abbiamo lamentatemi, che era la professore dell'Accademia pure di materie teoriche, non stanno parlando di disegno docente. Allora, qui ci sono le X, qua ci sono, all'interno ci sono le S, quindi c'è un'ipotesi di cosa succede dentro. Ogni volta che questo fa un passo c'è una transizione da un XI a un XJ, cioè cambia un simbolo scritto sulle caselline del nastro, ma contemporaneamente c'è una transizione da un SK a un SL. può anche rimanere uguale, ma insomma c'è una, cioè, KL può essere la stessa cosa, ma insomma c'è una transizione, quindi c'è qualcosa che cambia all'interno, c'è la macchina di Turing, cioè il modello teorico dei computer, già prevede, no? Capite che è diverso da dire quella è una scatola nera e non mi interessa niente di quello che capita lì dentro. Perché il mondo agisce anche sul linguaggio, mica solo il linguaggio sul mondo. E quindi è ovvio che può cambiare anche una cioè, e quindi se io non ho fatto nessuna ipotesi e non mi interesso di quello che succede dentro la scatola nera, almeno alcune delle mie correlazioni tra input e output possono risultare o povere o addirittura sbagliate, perché non ho tenuto conto di quello che è successo dentro, no? Chiaro, no? Allora, vorrei provare a rispondere alla domanda che non mi sono neanche posto l'altra volta, ma se qualcuno di voi era particolarmente acuto poteva già porsela per conto suo, comunque ve la pongo io oggi. Dice, ma perché Catherine Hales dice che questo modello, che questa idea di, diciamo, cibernetica di Norbert Wiener e di questa prima fase della cibernetica presuppone qualcosa di simile al soggetto borghese classico liberale? Che cosa c'entra? Perché? Qual è la correlazione tra questa... Allora, proviamo a leggere, vi leggo un pezzetto che ho già tradotto in italiano, quindi il resto mi toccherà tradurlo, se voglio leggere qualche cosa direttamente. Allora, questo è un pezzo della Catherine Hales, pagina 104. La soggettività si chiama la soggettività liberale messa in dubbio. Norbert Wiener e l'ansia cibernetica. Questo è il titolo del capitolo quarto del libro della Hales. Sentiamo cosa dice. Nel materialismo smaterializzato, tra virgolette, del campo di battaglia in cui la vita combatte contro l'entropia e il rumore, il corpo non viene più considerato fondamentalmente un oggetto materiale, ma una struttura informativa. Il termine che io ho tradotto con struttura, ho tradotto io perché non c'è ancora lì questo libro tradotto, quindi, nell'originale inglese il termine è pattern, non è structure. Il termine pattern, tutti voi sapete che è un termine bello ma complicato dell'inglese, perché a volte può voler dire struttura, a volte può voler dire forma, può voler dire un sacco di cose, insomma, io in questo caso direi che si può tradurre con struttura. Quindi il corpo non è più considerato un oggetto materiale, ma una struttura informativa, un pattern, informational pattern. Allora la lotta si svolge fra gli agenti strategici che cercano di preservare intatta questa struttura, cioè la struttura che insorge, e gli oppositori rumorosi, o meglio il rumore come oppositore, che cercano di distruggerla. L'origine ve l'ho detta qual è? Sono i primi pratici della trasmissione di informazioni lungo un canale, sia esso un cavo, sia esso lettere. Ci sono delle condizioni di alterazione dei segnali, che gli ingegneri chiamano solitamente rumore, noise, e che rende difficile, no, trasmettere questa struttura informativa. Catherine Hales qua però estende questa cosa, perché dice che c'è... allora, il corpo cerca, ci sono degli agenti strategici che cercano di preservare intatta la struttura informativa che sarebbe il corpo, no? E qualcosa che si oppone alla conservazione di questa struttura, che sarebbe il rumore. È una estensione del modello della trasmissione di informazioni lungo un canale alla presenza del corpo nel mondo. È più complicata, come ovvio, la presenza di un corpo in un mondo rispetto a una trasmissione di informazioni su di un canale, però l'ipotesi che fa la prima azione cibernetica è appunto questa. Wiener fu una delle voci più importanti che negli anni 40 e 50 dipinse proprio in questi termini il dramma cosmologico fra meccanismi cibernetici e rumore. Lo chiama dramma cosmologico, ma è giustificato. In The Human Use of Human Beings, egli suggerisce che gli esseri umani non sono tanto ossa e sangue, nervi e sinapsi, quanto strutture di organizzazione. Sottolinea che nel corso della vita le cellule che costituiscono un essere umano si rinnovano e cambiano completamente più di una volta, questo è vero. L'identità di conseguenza non può basarsi sulla continuità fisica, questo è come la pensa Wiener. Infatti, virgolette, citazione da Wiener, Human Hughes, pagina 96 dell'edizione americana, non so quale sia quella italiana, che peraltro non c'è più, quindi non è difficile trovare. Citazione di Wiener. Nel corso della vita i nostri tessuti cambiano, il cibo che mangiamo e l'aria che respiriamo divengono carne della nostra carne e ossa delle nostre ossa, e gli elementi effimeri della nostra carne e delle nostre ossa se ne vanno con le nostre escrezioni. Non siamo altro che mulinelli in un fiume la cui acqua scorre in continuazione. Avete capito di dove la presa questa? Sulla sangue. Dai, il fiume che scorre e che cambia sempre. Sì, quello lì. Dillo. Così parla. No. Molto più antico. Molto più antico. Eraclito. Oh, lo sapevo io. Eraclito. Eraclito, non ci si bagna mai due volte nell'acqua dello stesso fiume. Quando Eraclito vuole sottolineare il fatto che non esiste l'essere, che non esiste qualcosa di permanente, ma soltanto il divenire, usa questa famosissima metafora che è rimasta una metafora. Questa sì, può dire che è una metafora. Dice non ci si bagna mai due volte nell'acqua dello stesso fiume, cioè il fiume è qualcosa che io percepisco come unitario, ma in realtà non ha nessuna unità perché è acqua continuamente diversa che scorre il campo. E così più o meno questa è ovvio che c'è una reminiscenza di Eraclito. Era una persona colta, Wiener, non era soltanto un ingegnere. Quindi non siamo altro che mulinelli in un fiume la cui acqua scorre in continuazione. Non siamo materia che resiste. Non siamo materia che resiste. Il termine che usa non è matter, è stuff. Il termine inglese è stuff. Roba, cosa. Non siamo, però direi che si può tradurre materia. Non siamo materia che resiste, ma strutture che perpetuano se stesse. Non siamo stuff, ma siamo patterns. E le strutture perpetuano se stesse. Human Use of Human Beings, pagina 96. Conseguentemente, adesso sempre Hess invece di nuovo che parla, conseguentemente per comprendere gli umani si deve comprendere come le strutture informative a cui essi danno corpo si creino, si organizzino, si immagazzinino e vengano recuperate. Una volta che questi meccanismi siano compresi, essi possono venire usati per creare delle macchine cibernetiche. Questa è la ragione per la quale Wiener concepisce che una macchina possa svolgere almeno alcune delle funzioni che svolge anche l'essere umano. Perché basta identificare questi pattern informativi che sarebbero i modelli fondamentali di funzionamento del corpo e quindi anche della mente umana e implementarli, costruirli, replicarli su delle macchine costruite dall'uomo. Queste macchine in linea di principio potrebbe, se le costruisco bene, se intanto sono due condizioni, primo che io riesca a interpretare e capire bene quali sono i pattern, cioè le strutture informative che definiscono più o meno la mia biologia in genere, no? Perché questo è. Secondo, che io riesca a, replicarli. Una volta ipoteticamente che abbiamo risolto queste due cose, io posso almeno in linea teorica, posso pensare di poter costruire anche una una macchina che più o meno funzioni come gli esseri umani. Se negli umani la memoria è il trasferimento di strutture informative dall'ambiente al cervello, si possono costruire delle macchine che effettuino lo stesso tipo di trasferimento. Le macchine possono anche avere delle emozioni se i sentimenti non vengono considerati, virgolette, degli epifenomeni del tutto inutili delle attività nervose. La citazione è sempre da Wiener, da Human Use, ma come meccanismi di controllo che governano l'apprendimento. Quindi l'ipotesi di Wiener è che le emozioni non siano, come nell'ipotesi positivista classica e insomma, diciamo meccanicistica volgare, degli epifenomeni, cioè dei fenomeni costruiti sopra, delle cose tutto sommato trascurabili, insomma, dei fenomeni del tutto inutili delle azioni nervose, ma dice Wiener, sono meccanismi di controllo che governano l'apprendimento. Considerate come strutture informative, le macchine cibernetiche e gli uomini possono fare causa comune contro le forze distruttive del rumore e dell'entropia. È chiaro il modello? Quindi il corpo dell'uomo è gli esseri umani, i loro corpi in primo luogo sono caratterizzati dall'essere, dall'avere o dall'essere, dall'avere dei modelli, delle strutture di creazione, di gestione, di trasmissione dell'informazione, di immagazzinamento, anche di gestione interna, evidentemente. E questa informazione, usando le teorie di Shannon e Weaver, può essere descritta in termini matematici, quindi posso progettare dei dispositivi artificiali che facciano lo stesso lavoro di fatto che fanno gli esseri umani. Ancora una volta, anche questa idea deriva in qualche modo da Turing. Quando Turing nel 35-36 aveva ipotizzato la sua macchina che funziona in questo modo qua, aveva anche nello stesso articolo in cui espone questa, diciamo, l'ossatura di questa teoria, aveva già addirittura proposto una prova, un test, perché lui diceva, sia pure in modo meno analitico, ancora meno preciso di Wiener anni dopo, ma insomma già Turing aveva supposto, aveva ipotizzato che ci potessero essere delle macchine che in qualche maniera potevano simulare i processi mentali umani, quindi non era ancora stato enunciato il programma di ricerca dell'intelligenza artificiale, ma le basi erano quelle lì. Allora, a questo punto Turing aveva ipotizzato un test dal quale si poteva capire se una macchina si potesse veramente chiamare intelligente o no. Lui era convinto che fosse possibile costruire delle macchine intelligenti. Il test che lui aveva individuato era un test un po' strano per un matematico, perché fa appello alla diciamo, soggettività umana e a una valutazione umana, perché lui diceva il test facciamolo in questo modo: prendiamo colui che si sottopone, cioè l'agente del test è un essere umano normale che dialoga con due persone che stanno in due stanze chiuse, inaccessibili a lui, e può comunicare con loro soltanto tramite entrata e uscita di foglietti di carta con delle cose. Lui gli fa delle domande a queste entità, infilando il foglietto con una domanda o con una frase qualunque in una apposita fessura, e queste due entità gli rispondono nello stesso modo, cioè producendo delle risposte scritte che escono dalla stessa o da un'altra fessura. In una di queste due stanze c'è un essere umano, in un'altra stanza c'è una macchina, una macchina di Turing, diciamo, quindi un computer poi quando è, il quale è in grado di leggere i simboli, cioè le lettere scritte sui fogli mandati dall'essere umano e di fornire risposte appropriate. La macchina di Turing supererà il test, il computer supererà il test, quando l'essere umano che gestisce l'esperimento non sarà in grado di distinguere le risposte dall'uno da quelle dell'altro. Fino a che l'essere umano è in grado di dire questo che mi sta rispondendo è un essere umano, l'altra è una macchina, la macchina fallisce il test. La macchina supera il test quando l'essere umano dice ah, questo è un uomo e invece era una macchina. O quando si sbaglia o quando dice sì, nell'ipotesi originale è che l'essere umano, diciamo, esplicito, visibile, sappia che c'è, da una parte c'è una macchina e dall'altra c'è un essere umano, ma non sappia quale dei due. Quindi di fatto a ogni passaggio l'essere umano dice sempre questa è una macchina, questo è un essere umano, questa è una macchina, questo è un essere umano. Nel momento in cui si sbaglia, nel momento in cui attribuisce la qualità di potrebbe, attenzione, sì, automaticamente se tutte le volte deve dire questo è un uomo, questo è una macchina, si sbaglierà pure nel senso opposto. Se il test, perché è un po' diverso, se il test fosse più libero, cioè se l'uomo avesse la possibilità di dire addirittura no, sono macchine tutte e due, allora sarebbe un po' più complicato. Ma se voi fate l'assunzione esplicita, supplettiva, che lui debba dire sempre, che debba sempre supporre che uno è una cosa e l'altro un'altra, quindi che non può dire solo tutte e due. In questo caso sbagliarsi sulla macchina vuol dire sbagliarsi anche sull'essere umano. Che se ci pensate può essere interessante, è un discorso analogo a quello che fa Dick in alcuni dei suoi romanzi sugli androidi. Meno in 200 Stream, più in Abraham Lincoln. Diciamo, Abraham Lincoln è più chiaro da questo punto di vista. Lì lui parte dall'idea che sia semplicissimo distinguere gli esseri umani dalle macchine, perché gli esseri umani hanno l'empatia e le macchine no, in proposito esplicitato, cioè criterio esplicitato anche in Two Enders Dream, naturalmente in tutti i romanzi e racconti di Dick sugli androidi. Ma in Abraham Lincoln a un certo punto lui deve cambiare, deve cambiare ipotesi, perché c'è una macchina, cioè Abraham Lincoln, l'androide costruito a immagine e somiglianza di Lincoln, che a un certo punto esibisce non solo la capacità di comprendere un essere umano in difficoltà, un essere umano malato mentalmente, e di dirgli delle cose che lo sconfortano, ma addirittura di esprimere qualcosa di simile, cioè delle cose che non si possono altro che definire sentimenti, cioè paura, angoscia. Il pezzo in cui viene descritto la nascita di Abraham Lincoln, cioè la nascita di questo androide, è proprio utilizza già questo genere di cose. Cioè viene descritta la nascita di Lincoln, dell'androide Lincoln, come se questo androide provasse paura, sentimenti, eccetera. Mentre il personaggio femminile principale di Abraham Lincoln, che è una donna schizofrenica chiamata Pris, esattamente come l'androide numero 2 di Two Androids Dream, nel film gli hanno cambiato nome, ma non si chiama più Pris, comunque è lo stesso nome. Questa Pris, che è la donna di cui il protagonista Lewis è innamorato in Abraham Lincoln, questa donna è così schizofrenica e così malata che non ha sentimenti, cioè è la negazione del sentimento. Infatti fa uno scherzo terribile al povero Lewis, e che alla fine del libro lo induce a entrare nella casa di cura, cioè nel manicomio, insomma, con lei, perché lei è già lì dentro. Lui entra lì dentro e lei, dopo una settimana o due, riesce ad ingannare i medici, fa finta di essere guarita, se ne va fuori e lui lo molla dentro. E il libro finisce proprio. È una stronza, una stronza come poche. E vabbè, e Dick aveva dei problemi con le donne, sappiamo. Però insomma, in Abraham Lincoln c'è una interessante inversione tra uomini e macchine proprio su questo piano, sul piano della sul piano, cioè è una variante anche un po' più sofisticata del test di Turing, ma insomma l'idea di fondo è sempre quella. Sto facendo una digressione, ma più o meno tutto è... No, il test di Blade Runner è diverso. Il test di Blade Runner, sì, ha delle... però il test di Blade Runner si affida più a delle... Sono delle domande... Ok, ma il Voight-Kampff si chiama così? E c'è la possibilità di dire uno o l'altro. Ma il Voight-Kampff in realtà ti guarda la pupilla. Anche, no? Sì, ma quindi tu puoi anche mentire, l'androide può anche mentire, ma se tu gli fai la domanda, c'è una tartarughina sulla strada, eccetera, cosa fai? Se sei un androide scemo, rispondi, me ne batto il cazzo, lo schiaccio, e gli dici, ok, sapete, l'androide vaffanculo. L'androide furbo fa, dice, la curo, poverina, eccetera. Ma il test, perché il test? Perché se tu puoi mentire, ma c'è la roba che ti analizza nel film, si vede chiaro, come dire, pupilla. Siccome l'androide, questo è diciamo l'assunto di Ender's Dream, che è molto più negativo sugli androidi come libro che non Abraham Lincoln, siccome l'assunto dell'androide è che l'androide proprio non gliene frega nulla, che non abbia proprio la minima empatia per gli esseri viventi, e questo viene rivelato dal fatto se gli si dilata o no la pupilla, insomma. All'inizio del film, Polyakov uccide il primo, non mi ricordo più come cazzo si chiama, insomma, perché il primo cacciatore si è accorto che, cioè non gli ricorda la pupilla, quindi si è accorto che lui è un androide, perché gli ha fatto il test Voight-Kampff. Quindi lì lui ha un po' barato, insomma, Dick, perché gli ha aggiunto un rivelatore di fisiologia, diciamo, di reazioni, diciamo, fisiologiche su cui non si può mentire, per cui l'obiezione più grossa che è stata fatta al test di Turing è stata fatta in realtà diversi anni dopo che Turing era già morto, naturalmente, da un filosofo inglese, un filosofo americano che si chiama John Searle, autore di una importante teoria sugli atti linguistici. Se trovate il librettino in cui è contenuta questa cosa, diciamo in italiano, però è ormai fuori commercio, non so perché, però è qualche biblioteca si trova. Si chiama, insomma, Menti, Cervelli e Programmi, a cura di Graziella Tonfoni, che è un dibattito dei primi anni, un libro scritto, pubblicato in italiano nei primi anni 90, ma che raccoglie, mette insieme diverse cose da varie fonti americane, ed è tutto un dibattito pro e contro l'intelligenza artificiale. Quindi c'è Minsky che parla pro, sono tutti quelli che parlano pro, e Searle parla contro, ce n'è anche altro contro. L'argomentazione di Searle è interessante perché Searle si inventa, fa il controesempio rispetto a quello di Turing, della stanza con un cinese. Cioè, allora lui ipotizza che ci siano due esseri umani, sempre con l'idea che uno stia in una stanza chiusa e non sia visibile, no? E e uno, quello che fa il riferimento, gli manda a quello che sta nella stanza chiusa. Mentale, vabbè, però se però potrebbe fare. Però è una risposta a quello di Turing, cioè. E gli manda dei foglietti scritti in cinese, no? Allora, l'uomo della stanza dentro non sa un cazzo di cinese. Mi dispiace che manchi la nostra riga cinese, che ci sarebbe divertita, poi lo raccontiamo. Allora, gli manda delle cose in, diciamo, cinese. Quello che sta dentro la stanza non sa una mazza di cinese, non lo sa proprio. Però ha un sacco di libri, un sacco di cose, e rapidissimamente guarda i segni cinesi, ha una specie di, diciamo, dizionario. Li, insomma, traduce li cosa e fa delle, e traduce grosso modo, fa dei segni, copia dei segni cinesi che possono vagamente combinarsi con questo. Dopodiché quello che sta fuori riceve delle risposte più o meno sensate e ipotizza, quello dentro sa il, diciamo, cinese. Estremizzando, dice Searle, si potrebbe costruire una macchina la quale è in grado di accoppiare una lista di simboli scritti in qualsiasi cosa, diciamo, facciamo le cose del cinese, interpretarli più o meno, ma interpretarli, cioè avere un elenco di altri segni a cui rispondere a una certa sequenza di segni in, diciamo, cinese. Questa macchina, messa di fronte, cioè datogli un input di segni in cinese, produrrebbe un output di altri segni in, diciamo, cinese, magari anche sensati, che un cinese leggendo potrebbe dire, ah sì, più o meno questo. Ma questo non vuol dire affatto che la macchina che sta qua dentro capisce il cinese, non capisce un cazzo, dice Searle, non ha nessuna conoscenza. Ma scusi, mi fa un po' come macchina. Il motore di internet quando noi digitiamo. Bravissimo. Il motore, alcuni motori, sono alcuni motori che uno potrebbe dire no, qualche conoscenza hanno. Il motore di Google, lo spazio di Google è uno spazio stupido, non fa un cazzo, non ha alcuna idea semantica, non fa alcun accoppiamento semantico, accoppia il nome Caronia, infatti mi dà non solo le cose su Antonio Caronia, ma le cose sul paese di Caronia e le cose su San Atlantico Caronia, e non gliene porta un cazzo a lui di come si, cioè per lui è tutto uguale, come ovvio, insomma, no? È vero però che ci sono alcuni motori chiamati semantici che 5-6 anni fa promettevano meraviglia, adesso un po' meno, i quali invece hanno delle regole, diciamo, differenti. Allora, io adesso non voglio vendervi, non voglio dirvi che se ognuno di voi, insomma, deciderà se c'è ragione Searle o no. Si potrebbe obiettare a Searle che effettivamente anche un web semantico, cioè anche una come dire, macchina dotata di alcune regole di interpretazione, che poi certamente sono sempre soltanto accoppiamenti di liste di simboli, non è, voglio dire, nient'altro, questo è ovvio, ma si potrebbe pensare che una adeguata e raffinata, sofisticata, molto ampia raccolta di regole, anche soltanto sintattiche, di accoppiamento di liste di simboli possa essere descritta embrionalmente come un processo di comprensione. In realtà Searle, come ogni buon filosofo del linguaggio, si guarda bene dal fare un'ipotesi così semplificatoria sulla semantica. Neanche De Saussure, voglio dire, nessuno dei linguisti del secolo scorso o di questo secolo, per non parlare di quelli dell'Ottocento, come ovvio, condivideva questa idea che la semantica non sia altro che una sintassi particolarmente raffinata. Non è così, certamente non è così. L'accoppiamento di significanti con significati, cioè l'accoppiamento di sequenze di suoni o di sequenze di segni grafici scritti su di una pagina con contenuti mentali, e come è ovvio nell'essere umano funziona tra due serie di fenomeni quantitativamente differenti, qualitativamente differenti, uno stato mentale, un'immagine mentale, i contenuti mentali non possono essere classificati sintatticamente, sappiamo bene che sono qualcosa di cui noi facciamo un'esperienza e sono, come dire, diversi. L'esistenza del linguaggio può influenzare, sicuramente influenza il modo in cui io penso, e quindi le mie immagini mentali, i miei contenuti mentali in qualche maniera subiscono l'esistenza del linguaggio. L'esistenza del linguaggio, ma non sono di per sé linguaggio. Il mio ricordo della Certosa di Pavia in una sera dell'estate, dico una puttanata, del 1986, certo che io posso descriverla e ti racconto, stavo quella sera di fronte alla Certosa, tra le nuvole, guardavo. Ce la posso guardare, ma la mia esperienza interna, mentale, l'esperienza che ho fatto allora e l'esperienza che ne faccio adesso quando me lo ricordo, non è il linguaggio, non sono le frasi che ho detto, quindi sono due cose veramente differenti. Il problema del test di Turing, di qualunque macchina di Turing, di qualunque computer, è che non ha una semantica. Simula la semantica accoppiando strutture sintattiche diverse. Ma è sempre sintassi, sono sempre sequenze di simboli, chiaro o no? Quello che l'obiezione di Searle è, se non c'è rapporto tra sintassi e semantica, se non c'è accoppiamento reale di significanti con significati, non ci può essere quello che noi chiamiamo comprensione. Questa è l'obiezione di Searle a qualunque ipotesi di intelligenza artificiale, sia forte che debole. Perché lui dice, non c'è modo, ci può essere la simulazione di qualche effetto, e il suo esempio sulla macchina che fa finta di capire e di parlare cinese, ma in realtà non sa nulla della lingua cinese davvero, è questa, perché lui dice ogni essere umano, tutti noi sappiamo una lingua, comprendiamo una lingua, perché sappiamo fare l'accoppiamento fra produzioni verbali di quella lingua e contenuti mentali e immagini mentali. Questo è il significato, eh? Non pensate che il significato né per Saussure né per un qualunque semiologo sia qualcosa di materiale. Questo non è un significato, questo è un oggetto materiale del cazzo. Il significato della parola sedia è l'immagine mentale che io ho di una sedia, eh? Non equivochiamo. Questo non è un significato, questa è materia organizzata, più o meno benino, un po' pesante, sedie vecchie, non sono le sedie, da qui già, vedete, già siamo meglio, che è più leggero. È chiaro cosa intende per contenuti, per significato, eh? Il significato, questo Saussure insiste costantemente nel corso, non sono gli oggetti materiali i significati, non sono non è la materialità del reale, è quello che si potrebbe chiamare mondo, certo, nel senso che il mondo ha un forte riferimento con una realtà, come dire, materiale. La realtà in quanto tale vale, questo l'ha detto Kant una volta per tutte, non ce lo dimentichiamo, è inconoscibile. La realtà non si può conoscere, c'è sicuramente, c'è qualcosa che influenza, ma che cosa sa, cos'è? È la realtà organizzata e linguistizzata, cioè il mondo che è accessibile, che sono i fenomeni, quello che noi abbiamo chiamato. Ok, su questo ci siamo. Allora, Catherine Hale fa una interessante distinzione, discutendo sul test di Turing, che ve l'ho introdotto, per parlare del corpo fra inactive body e represented body. Il corpo, qui c'è un bel problema, ragazzi, cosa, come si può tradurre inactive? Inact. È difficilmente traducibile. Allora, io qui ho provato a tradurlo corpo agente e corpo rappresentato, però per certi versi agente va bene, ma... Allora, agente in italiano è un participio presente, giusto? Colui che agisce. Enacted in inglese è un participio passato. Però, intanto gli inglesi hanno il verbo enact e noi non ce l'abbiamo, perché più o meno è agire. Però c'è l'end davanti, agire è anche to act. Quando, gli inglesi quando dicono enact intendono una azione, diciamo, efficace, che ha un effetto sul mondo. Azione può essere, io posso fare un sacco di cose e faccio tutte delle azioni, ma molte delle azioni che faccio possono non avere effetto, cioè possono essere i calci miei, delle cose così, posso, che ne so, fare un gesto vago che mi è venuto in mente una cosa, cammino per la strada, a parte uno che mi guarda e dice questo è scemo, non ha nessun effetto sul mondo, no? Non ha nessun... L'azione che io sto facendo adesso, parlando invece, ha un effetto sul mondo. Ha un effetto sulle vostre teste lì, ci mette dentro le cose, ci mette dentro niente, stimola dei processi mentali da parte vostra che però non sarebbero successi se io non avessi trovato. Quindi io sto facendo un enacting ora, quando uno parla sempre fa del enact, mi mette. Allora, però enacted, l'inglese dice enacted body, che vuol dire che è un di quelli che dicono che l'inglese è una lingua rozza e sono proprio stupidi, perché invece è una lingua sofisticatissima. Enacted vuol dire che qualcosa ha fatto un act e che questo body è stato enacted, cioè è stato messo in azione. Enacted body quindi significa noi non abbiamo altro modo che dire agente, certo, perché per noi è. Però quando noi diciamo il corpo agente, intendiamo il corpo che agisce in questo momento, che sta agendo. Mentre nella locuzione enacted body c'è il riferimento anche a qualcosa che è successo prima e che ha messo in moto il corpo. Quindi il corpo subisce o poi a sua volta lui fa delle cose, Si potrebbe anche dire, però lei non dice acting, se avesse voluto dire agente avrebbe detto acting, invece si dice inact, ma insomma comunque. La cosa fondamentale è che non so se c'è qualcosa. Sì, però nelle varie produzioni che piace. Mi sembra il verbo prolungato, però non nel senso di arrivare, non so che c'è qualcosa, quindi volevo dire quasi la significato. Sì, in questo contesto qui non avrebbe senso tradurre prolungato, però c'è questa idea, certo, perché vuol dire che c'è una vuol dire che c'è un processo che è cominciato prima e che ha degli effetti adesso, certo, che ha degli effetti. Comunque la cosa fondamentale adesso, queste sono raffinatezze linguistiche, la cosa, come dire, fondamentale è che Ailes dice, in ogni test di Turing c'è un enacted body e un represented body. L'enacted body è il corpo dell'intervistatore, cioè di quello che fa le domande, che è presente in carne, ossa, nel mio caso più ossa che carne, dipende dai vari casi, insomma. Cioè quello che sta da una parte dello schermo del computer, quello le cui ditine azionano la tastiera, quello i cui occhi guardano. Dall'altra parte cosa c'è? Anche nel caso in cui la disegnatrice di macchina abbia superato il test e quindi si sia spacciata ai nostri occhi per un essere umano, per un corpo. Allora, è un corpo, ma è un represented body, io non lo vedo questo corpo. Da che cosa inferisco l'esistenza del corpo? Da una serie di segni, no? Da marcatori verbali, elettronici, da parole che arrivano sullo schermo. È un insieme di effetti semiotici che mi fanno supporre che dietro a questa cosa ci sia un corpo. Questo è un represented body. L'idea diciamo, l'osservazione di Catherine Hales sul test di Turing è che, leggiamo letteralmente, sempre tradotto da Caronia, vabbè. Ciò che il test dimostra è che la sovrapposizione tra i corpi enacted, tra i corpi agenti e i corpi represented, i corpi rappresentati, non è più una inevitabilità naturale, la sovrapposizione, ma è una produzione contingente mediata da una tecnologia che si è associata così strettamente con la produzione della identità che non può più essere separata dal soggetto umano. Se vogliamo conservare un minimo di senso. Porre la domanda che cosa può pensare cambia inevitabilmente anche i termini di chi può pensare, come in un anello di feedback rovesciato. Come se in questo caso non fosse più l'output che influenza l'input, ma l'input che influenza l'output al di fuori della scatola nera. Ci stiamo avvicinando quindi credo, passo passo, a cercare di capire che cosa intende Catherine Hales quando dice che la cibernetica di Wiener è una cibernetica, cioè in qualche maniera perpetua l'idea del soggetto, diciamo del soggetto borghese, insomma, del soggetto umano tradizionale. L'interrogativo cartesiano tradizionale, che cosa esiste se metto in dubbio il mondo, cosa esiste se metto in dubbio la realtà esterna, se metto in dubbio gli altri, però a un certo punto arriva, c'è qualcosa che non posso mettere in dubbio perché il fatto stesso che io stia mettendo in dubbio qualche cosa, secondo Cartesio, implicherebbe che c'è qualcosa che non posso mettere in dubbio, cioè il soggetto che sta mettendo in dubbio tutto il resto. Il codice per costume vuol dire questo, no? Penso dunque sono. Adesso noi sappiamo quanto sia fallace questa inferenza di Cartesio. Ma la cosa fondamentale è che quando Cartesio fa questa operazione si concentra sulla soggettività, giusto? È geniale la mossa, diciamo, cartesiana, perché? Perché al contrario di ogni teoria tradizionale del rispecchiamento, di ogni teoria tradizionale gnoseologica, cognitiva del rispecchiamento, che faceva dipendere la qualità della conoscenza dalla bontà del rapporto rappresentante-rappresentato, dice io conosco bene perché so descrivere bene il mondo è, la conoscenza è, diceva San Tommaso, adequatio, rei et intellectus, adeguamento dell'intelletto alla cosa. Quando ho adeguato bene l'intelletto alla cosa, conosco bene. Cartesio rovescia, dice no, ciò che apparentemente è la cosa più ballerina, la cosa più discutibile, perché è quella che mette, cioè perché è il soggetto che mette in discussione sia se stesso che il mondo, bene, Cartesio dice, paradossalmente è proprio lì, è proprio simile alla frase di Kölzerlin, là dove c'è il pericolo cresce anche la salvezza. Là dove mi aspetto di trovare il terreno più paludoso e meno sicuro per ancorarmi e per dire qualche cosa esiste, lì in realtà è l'unica cosa che io posso dire che esiste, quella più incerta, quella più interna, quella meno comunicabile, quella in Minnina Candida di Bontempelli, a questa povera ragazza alcuni amici burloni non postronzi fanno credere, cosa tipicamente cartesiana, che tutte le persone al di fuori di lei non siano realtà vere, persone umane, ma siano dei dopo. Costruiti apposta per ingannarla. La povera, come dire, Minnici si fa suggestionare da questi bulloni, insomma la cosa da uno scherzo si traduce in una, come dire, ossessione, ma naturalmente anticartesianamente Minnici finisce col mettere in dubbio non l'umanità degli altri, ma l'umanità di se stessa. Allora anch'io sono un robot. E quindi no, mette in dubbio anche l'umanità degli amici che gli hanno dato tutto. Questo, tutti. Ancora una volta, se vogliamo, c'è qualcosa di simile anche in Dick, in Do End Stream, quando una parte che nel film non c'è, in Blade Runner, quando si scopre che l'annunciatore televisivo Buster Friendly, che è uno dei più popolari personaggi di quell'epoca lì, non è altro che un androide. E quindi si è spacciato per essere umano, a volte ha preso in giro gli androidi, eccetera, eccetera, ma è un androide pure lui. Quindi c'è un continuo rovesciamento. È chiaro che la posizione del dubbio radicale cartesiano e la risposta di Cartesio a questo dubbio, cioè il cogito ergo sum, rappresentano un passo avanti rispetto alle teorie tradizionali, per esempio tomista, aristotelica anche, della teoria della conoscenza tradizionale. Esiste una realtà, esiste un soggetto, conoscere vuol dire accordare questo soggetto con la realtà. Quindi è sicuramente un passo avanti. Non è un caso però che Cartesio in questo modo non superi il dualismo platonico, niente affatto. È costretto a confermarlo. Avendo dato così tanto peso alla soggettività, che è l'unica cosa di cui io posso essere sicuro, l'unica cosa di cui il soggetto può essere sicuro in un mondo di totale insicurezza, è il soggetto stesso. Questo soggetto viene caricato, no? Di una tale importanza, di una tale potenza che quasi automaticamente deve essere dichiarato una sostanza diversa dalla materia. Se è così importante, se è l'unica cosa che mi salva dal dubbio totale, globale e permanente, se è l'unica cosa che sono sicuro che non sia un androide in tutto quello che mi circonda, vuol dire che sarà fatto di una sostanza, di uno staff diverso da quello della materia, no? E quindi Cartesio è costretto a riproporre, si è salvato dall'aristotelismo ingenuo e becero, dal tomismo, adeguare l'intelletto alla cosa, è un po' poco, è un po' misera come descrizione della conoscenza, mi pare, no? Però paga un prezzo, lo scotto è quello di dovere fare ergere il soggetto di fronte al reale come una sostanza incommensurabile con la materia. Tutto nel mondo è materia, tranne la soggettività dell'essere umano. Allora, il fatto che non la chiamiamo anima non conta poco, di fatto è il vecchio dualismo platonico trasferito nel cristianesimo e su cui, diciamo, l'ebraismo eretico che poi diede origine al cristianesimo, nell'ebraismo tradizionale c'è poca traccia di spiritualismo. La nozione di anima non c'è praticamente nella Bibbia, nell'Antico Testamento. Ogni tanto si parla, sì, di Lazzaro che vede, che guarda i suoi amici nel seno di Abramo, questa cosa del paradiso, insomma sono robe, piccole cose, no? È la congiunzione con il neoplatonismo che dà al cristianesimo la nozione di anima, non gli deriva tanto dalla componente giudaica. Sapete che ho perso il filo? Ho detto, si faccio una digressione, accidenti, ma mo sono... Allora, sì, no, il filo è che l'idea è sempre cercare di capire perché perché la Hales dice che la cibernetica di Wiener è una conferma dell'idea, diciamo, del soggetto borghese. Allora, una prima possibile risposta è questa, perché in realtà dietro alla macchina di Turing, dietro alle ipotesi di Wiener sulla descrivibilità del corpo come strutture informative, dietro a quello che ho cancellato, insomma, dietro alla teoria della, diciamo, prestando un po' di metafisica alla teoria matematica della comunicazione di Shannon Weaver, insomma, dietro a tutta questa cosa che, allora, tutto questo discorso può funzionare soltanto se io prendo la nozione di informazione e ne faccio una specie di sostanza, di essenza, di ossatura interna di una serie di funzioni del corpo, che automaticamente quindi distacco dal corpo, perché dico sono descrivibili, operabili, si può agire su queste, addirittura possono essere replicate fuori dal corpo, e quindi vuol dire che sono qualcosa di indipendente dal corpo. In altri termini, le premesse implicite nella cibernetica di Wiener e in ogni teoria che proclami la ripetibilità dell'essere umano, cioè l'impiantabilità, cioè la costruibilità di una macchina diversa dal corpo umano, che faccia le stesse cose che fa la mente umana, la premessa implicita e anche nascosta a volte, non confessata, esplicitamente negata ma implicitamente ammessa, ci deve essere questa idea di fondo per poterlo fare, è che l'informazione rappresenti una qualità, una sostanza, un'entità diversa da quella del corpo. Separabile, se è separabile dal corpo vuol dire che non è la stessa cosa del corpo, se no non ne sarebbe separabile. E infatti sempre Searle contrappone alle visioni dell'intelligenza artificiale una dichiarazione di materialismo radicalissimo, e lui dice: io non ho nulla contro l'idea che una macchina pensi, ci sono macchine che possono pensare, ce n'è una in particolare, è il corpo. Il corpo è una macchina che pensa. Uso il termine macchina in maniera un po'... potremmo rimproverare che usa il termine macchina in modo un po' dirivolto. Diciamo un dispositivo materiale. L'idea di Searle è che il pensiero sia inseparabile dal corpo. Certo che c'è un dispositivo materiale che pensa. Entro certi limiti potremmo dire che ce ne sono parecchi di dispositivi materiali che a diversi livelli pensano. Tutto il regno animale in qualche maniera pensa. Ogni forma animale ha embrionalmente qualche funzione di autorappresentazione, rappresentazione o cose di questo tipo. Negli esseri umani la cosa è ipertrofica, sviluppata, perché abbiamo il linguaggio. No? Ma siamo noi che parliamo, è il nostro corpo che parla, quindi è il nostro corpo che pensa. Il fatto che noi non sappiamo ancora descrivere nel modo più analitico e più appropriato, non sappiamo mettere in relazione i nostri contenuti mentali, le nostre fantasie, i nostri pensieri, i nostri ricordi, le nostre attivazioni con degli stati fisici neuronali, non vuol dire che, certo che abbiamo il diritto di staccare l'anima dal corpo e l'informazione dal corpo, figuriamoci, ovvio che abbiamo il diritto. Ma per fare questa operazione semplicemente dobbiamo ammettere che esista una sostanza, una entità diversa dal corpo, chiamata come diavolo vogliamo, anima, si può usare qualsiasi terminologia, anche di tipo cibernetico. No. La cosa grande, diciamo, l'essenziale però è che per fare questa operazione dobbiamo essere convinti, come era convinto Cartesio, che le sostanze che interagiscono nell'uomo siano due. Diverse, la materia e lo spirito. Se difendiamo questo punto di vista, certamente siamo. Ed ecco perché però io sono abbastanza convinto di questa argomentazione di Searle. Non è possibile sostenere un'ipotesi di intelligenza artificiale, perlomeno forte, cioè può costruire una macchina che replichi una o più delle funzioni fondamentali intellettive degli esseri umani, non si può enunciare una ipotesi di questo tipo essendo materialista. Un'ipotesi di questo tipo è incompatibile con il materialismo. Un'ipotesi di questo tipo implica che esiste una sostanza, non un processo, non qualcosa che avviene nella mia mente, nel mio cervello, ma una sostanza, un qualcosa di separabile, di descrivibile, che si erge, che sta lì, substanza, che sta sotto o che sta sopra, perché poi buca la neve, come il bucaneve, ed esce. Il Gegenstand, come dicono i tedeschi, un oggetto, Gegenstand, che sta in mezzo in piedi dritto, questa ci deve essere l'ipotesi, ogni ipotesi, non è possibile. Il monismo è incompatibile con l'intelligenza artificiale. Io sono convinto di questo, e poi ognuno si convince come di dare a luna, insomma, la mia tesi. E trovo che sia particolarmente stringente la cosa di essere. Allora, una prima possibile risposta alla domanda che mi sono posto all'inizio è: la cibernetica di Wiener è il tentativo di salvare il soggetto cartesiano, quindi la soggettività intesa come elemento di un dualismo, in una situazione nella quale gli sviluppi storici e le condizioni storiche cominciavano a minacciare la sostanzialità, la autonomia di questo soggetto da una serie di altri processi. Detto in altri termini, già Marx aveva prima Nietzsche, prima Nietzsche, prima di tutto Nietzsche, poi per un'altra via Marx. Entrambi avevano messo in dubbio, avevano minato alla base l'idea della soggettività borghese, cioè l'idea che fosse possibile avere una definizione, una descrizione del soggetto come sostanza, come spirito, come fonte di processualità autonomo dai processi contingenti della storia. Tanto Nietzsche quanto Marx avevano in modo diverso, ripeto, detto, il soggetto è un... Certo che c'è il soggetto, ovvio che c'è una produzione di soggettività, ma questo è effetto di un processo storico. È effetto di un processo storico ed è radicato in una estensione e in un modo di organizzarsi della materia. Paradossalmente lo svilupparsi e l'estendersi del capitalismo come modo di produzione economico e anche culturale per certi versi, dominante nel corso del XIX secolo e della prima metà del XX, volente o nolente avrebbe dovuto contribuire a dare ragione a quella critica nietzschiana e marxiana dell'idea di soggetto come svincolato e come invece prodotto di un processo storico. Ma il capitalismo, l'ideologia borghese, l'ideologia capitalista non poteva invece rinunciare a questo pregiudizio spiritualista, a questo pregiudizio dualistico, a questo attaccamento al dualismo cartesiano, perché è proprio della società capitalistica e borghese quella di confondere le carte, quella di nascondere le proprie basi, quella di non dire da dove vengono le cose, quella di non dire di che lacrime grondi e di che sangue lo scettro di chi governa, come disse Foscolo nei Sepolcri. Disse che Machiavelli aveva svelato di che lacrime grondi e di che sangue lo scettro ai regnatori. L'ideologia borghese sta continuando a fare anche adesso questa operazione, esattamente questa operazione, ha bisogno dello spiritualismo, non perché ci creda, il borghese se ne strafotteva quando c'era e i nuovi borghesi se ne strafottono anche adesso. Sono convintissimo della fede materialista tanto di Giulio Tremonti quanto di Silvio Berlusconi, non ne dubito affatto, non gliene fotte una sega, non ci credono proprio, ma devono usarlo, gli serve, perché questo è l'unico modo con il quale possono, nascondendo, tacendo, anzi occultando, mistificando le proprie origini, mistificando il processo storico concreto che ha portato a queste cose e quindi facendo finta che questa idea, che questo io, che questo soggetto, che questo spirito, che questa anima, chiamatelo come diavolo volete, ci sia. Tutti coloro che pensano o che si auto rappresentano come materialisti, ma che pensano che sia possibile fare un personality download, prendere il nostro cervello, fargli un attacco sofisticatissima e andare a descrivere cellula per cellula che cosa cazzo c'è, trasferirla su un computer, ops, abbiamo il doppio di Caronia, eccolo qua. Non ci sarà nessun doppio di Caronia, nessun doppio di Giulia, è impossibile, non possiamo fare il doppio di un bel niente, perché noi siamo corpi che pensano, siamo corpi che parlano e corpi che pensano. Non c'è altro che questo, non c'è alcuna altra realtà possibile. Ogni altra descrizione della realtà è una mistificazione, è l'occultamento del processo storico reale e la sua sostituzione con un santino, con un santino, è un santino, l'idea è un santino. Io mi sono incazzato a sufficienza per avere voglia di fumare, facciamo una pausa.